se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Toglietevi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Temperamenti oggi contro questi fossili che vogliono di nuovo rifarci piombare nel paleolitico, perché sono nel paleolitico loro. Questa gente sono serial killer, questi qui attraverso questo involucro che hanno riempito di cazzate e stanno espropriando il futuro. Ma io me ne frego del mio futuro, ho 70 anni. Ma stanno espropriando e rubando il futuro di vostro figlio, di vostro nipote. Quella di Beppe Grillo, che è un grandissimo professionista, è una tecnica. Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle in queste ore sono in difficoltà. Il problema delle firme false, loro erano onestà. Cosa fa in questi casi Grillo, che è il più bravo di tutti? Inventa una frase a effetto, così che tutti gli altri cadano nel tranello e inizino a rispondere su questo. Perché il 4 dicembre non ripassa questo treno. C'è scritto sì o no, ma potreste immaginare sì o mai. Ho creduto troppo in me e ho pensato poco a noi. È tornato con la bandiera europea che è rispuntata improvvisamente dopo i rimbrotti anche di Prodi. È tornato Matteo risponde. La mia voglia di te risponde. È tornato Matteo risponde. E dall'altra parte invece Grillo gli dà del serial killer. Che bella campagna elettorale, signori. Ieri un giorno che non ha mattino lascia su di me il tuo profumo, rispondi. Dove sei, con chi vai, chi si prende? Buongiorno a tutti ragazzi, saluto in particolare i nostri ascoltatori all'estero. Angela ci ascolta a Losanna. Se ho perso anche te, rispondi. Dove sei? Il nostro Remo è lì, guarda che ci scrive dalle Seychelles. Dalla Dig, 30 gradi e cielo blu. Remo, mandaci una foto, dai, Remo. Che spettacolo. Ah, giusto, è vero. Arriverà il giorno per la gioia di Veronica Gentili, per la gioissima di Veronica Gentili, in cui faremo tutta una trasmissione. Ho visto la Veronica. Che? Tanta roba. Così non va, Veronica. Bisogna aggiornarsi, perché questa bisogna aggiornarsi, tanta roba è un po' ormai una banalità su Veronica Gentili. Tanta roba ormai è usurato, dai. Sì, ormai è usurato. Allora, per la gioia di Veronica Gentili verrà il giorno in cui faremo tutto il Parlamento con i pezzettini delle frasi di De Luca, è ufficiale ormai. Sì. Questo io me lo aspettavo, guarda. Dirò che questo ho pensato soltanto a te, sentendo questi giorni De Luca. Muoverò che spettacolo, che spettacolo. Vedi? Vedi? Dalla regia cominciano a sbizzarrire. Sì, sì, e faremo una trasmissione tutta così, con questi pezzettini in cui De Luca condurrà, di fatto io muoverò il labiale come i pupazzi e lui interverrà. Pinguino. Pinguino, questa è la migliore che ha detto, pinguino. Ma tu parli col tuo confessore di questa tua passione per De Luca? No, non ho un confessore. Però voglio salutare un pinguino, il nostro Federico Novella, bianco nero, in quanto sono, pinguino. Sono io il tuo confessore, Alessandro. Lo vedi che ce l'hai il confessore? Quante volte, Alessandro? Vediamo se questa Veronica l'ha capita. Pinguino, bianco nero, Novella. Com'è? Che da un punto di vista così intuitivo sono una ragazza intelligente. Quindi? Fino al fatto che faceva il cameriere ci arrivo. No! Pure cialtroneria. Eccolo. Mi sembra la giusta chiusura di questo discorso. Mi sembra giusto. Vabbè, qui stiamo parlando di cose molto importanti in realtà. Stiamo parlando di Veronica Gentili e di Federico Novella, che conduce il TG4. Eccoci. Sì, ricostituisce una coppia storica della comicità. Questa è una felicità grossa stamattina. Una grande coppia dell'avanspettacolo, mai dimenticata. Torneremo a riempire i teatri italiani. A proposito di spettacolo, ho una domanda molto chiara per Veronica Gentili. Apriamo il Parlamento perché così si può chiarire tutto. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Forza, gente! Allora, la questione è molto chiara ed evidente. I soldi regolano tutto. Cara Veronica, tu lo sai, i soldi. I danè a Milano si dice, i danè. I danè. Ma... come si dice a Roma? I quattrini. I soldi. Aspetta, fammelo più da borgatara. Aspetta, com'è? I soldi. c'era anche la mano tesa, non si è vista, ma c'era la mano tesa. C'era la mano a cucchiara. La mano a coppetta, esatto. Allora, questo governa tutto, nonostante il Papa dica che siano il nemico più grande di Dio, i soldi. Allora, la questione, la domanda è molto semplice. Veronica, tu sei anche una donna di spettacolo, si sa, sei un po' nel cinema. Allora, oggi il Fatto Quotidiano racconta che Franceschini ha aumentato del 60% il fondo per lo spettacolo, per il cinema, insomma, una valanga di quattrini. Ed ecco perché molti del mondo del cinema, improvvisamente, inaspettatamente, secondo alcuni, si sono pronunciati per il sì. Un po' alla De Luca. No? Un po' alla De Luca che dice chi se ne frega se state con Renzi o non Renzi, ci dai i soldi per la campagna. L'importante è che arrivano i soldi. E allora, Veronica? Mi stai tirando per la giacchetta a dire quello che non vorrei. Nel senso, sappi che magari arriva una prebenda, un contrattino. Un contrattino. Guarda, ogni uomo ha un prezzo, il mio è molto alto. Questo è importante chiarire subito, no? Dall'inizio, perché non voglio assolutamente fare morale, però faccio presente al Presidente del Consiglio che il mio prezzo è molto alto, quindi poi dopo ci si può accordare. Perlomeno una fiction in prima serata. Che ci faccio con la fiction? Questa roba non mi interessa. No, però in realtà guardate che il tema è molto serio. Io voglio farvi sentire ancora il De Luca del fiume di soldi. Ma che fai? Già scavallato lo spettacolo, ho capito che sei innamorato di De Luca. No, questa tra l'altro l'avete pubblicata voi del Fatto, questa riunione con i sindaci. Sentite qua De Luca, perché il tema c'è. Ieri Renzi è intervenuto qui ai nostri microfoni, lo sapevate che avevo Renzi ieri? Che siete delle celebrità internazionali, solo di voi si è parlato ieri. Smetti, vedi chi? Dai, De Luca, sui soldi. Noi abbiamo fatto una chiacchierata con Renzi, 270 milioni di euro per Bagnoli e ce li ha dati, altri 50 milioni e ce li ha dati. Terra dei fuochi, mezzo miliardo di euro. Quando abbiamo discusso questa cosa, lui era terrorizzato perché dice: se facciamo mezzo miliardo di euro per la Campania, la Lega Nord ci fa pezzi su tutto il centro nord. Abbiamo chiesto finanziamenti per la Reggia di Caserta, per Pompei, per Ercolano, per Pesto. sono arrivati fiumi di soldi. Allora, Federico Novella, qui la questione è molto seria, perché chi ha detto De Luca in realtà fa il suo lavoro, insomma, da presidente della regione, cosa fa? Cerca di portare soldi alla propria regione. Chi l'ha accusato invece di, come dire, no? Come la mettiamola qui la questione? Beh, la questione che ci si chiede sempre se tutti questi personaggi celebri, no? Molti dei quali si schiereranno in buona fede, no? Però sono tutti trasportati da una coscienza civile quando dicono sì, votate sì, sono un attore, votate sì. Secondo me no, secondo me non tutti. C'è un interesse. Non tutti. C'è un interesse. Beh, c'è un interesse. Vedi che tutti. Bravo Novella che non mi toglie le parole di bocca. Lo so. Ma credo che sia anche normale e comprensibile, no? Che ci sia da parte di qualcuno un interesse inconfessabile. Inconfessabile, ci vorrebbe un confessore. Ma resta da capire se sia inconfessabile o no per un presidente di regione portare soldi alla propria regione. Cioè, che vuol dire? Soldi vuol dire mica soldi che mi rimetto in tasca, vuol dire sviluppo, investimenti. Questo significa no. Certo. Sciocchina. Sì, è uno. Allora, ecco. Sì, poi sì. Guarda come risponde subito ormai, anche per strada devo provare. Sull'attenti proprio. Sciocchina? Sì, dimmi. Sì. Prego. Dicevo, mentre un presidente di regione fa queste uscite, bisognerebbe porsi il problema del perché continuiamo a fare la butade che si voti nel merito della riforma costituzionale. Sì. Perché se stiamo realmente votando nel merito della riforma costituzionale, perché arrivino più fondi alla regione Campania è una cosa che non ci riguarda, e il fatto che emergano parole come queste abbastanza grave. Ma ancora quindi... sta storia, ma io sono l'unico, credo, siamo due, io e Napolitano, che voteremo in base analizzando la questione della Costituzione. Anche però a me non... allora sgombriamo il campo da questa ipocrisia, non facciamo i confronti nel merito, non ci tediamo dalla mattina alla sera su come cambia la Costituzione. Ma infatti non frega nessuno, non frega nessuno. Decidiamo che stiamo andando al voto e chiudiamo qui la questione. Ma secondo me è così, cioè poi non entro nella testa di tutti gli italiani, ci saranno quelli che studieranno, ma l'80% cercheranno di capire sono con Renzi, sono contro Renzi, e voteranno così. Secondo me non solo non è vero che l'80% giudicherà sulla base del testo della Costituzione, ma non è neanche giusto, cioè, diciamoci la verità. Ma no, l'80% secondo me giudicherà in base al governo. Cioè forse in base al governo? Sì, ecco, sì, ma secondo me è inevitabile, perché non si può dire voto una riforma al buio senza considerare il momento in cui viene approvata, da chi viene proposta e chi se ne approfitterà di questa riforma, perché non è che viviamo sulla luna, bisognerà anche tener conto di questo. Quindi secondo te va proprio calata sul governo, su ragionare su da questo punto di vista. Ma non è che è calata sul governo, è stata fatta dal governo, non è che è stata calata dall'alto questa riforma. È stata votata in Parlamento. È stata votata in un certo modo, con dei certi tempi militari in Parlamento. È stata colpi di fiducia su tante cose come la legge elettorale, non la riforma, altrimenti poi dico questa frase si attaccano per 50 anni come è successo a Di Mita. No, quindi secondo me è assolutamente legato a loro e al destino di questo governo, che tra l'altro è un governo che è stato fatto con l'espressione il governo delle riforme, che è stato incaricato da Napolitano di vivere in quanto governo delle riforme. La Gentili Renzi... come De Mita, un'immagine veramente terribile. Capisci. tu capisci bene che siamo pronti a tutto. Però aspetta un attimo, però, perché devo salutare da Londra Giacomo, devo salutare da Parigi Ricchi. Ci ascolta da Parigi in questo momento, e poi un ascoltatore che ci dice: ma quindi devo votare per Renzi? Ma vedi, ma non lo so, ma c'è la par condicio. Poi io non soprattutto posso, tu non posso Sciocchina dire ti stai occupando degli italiani all'estero che ti scrivono con tanto zelo, a cui il Presidente del Consiglio ha mandato lettere proprio ce l'hanno il volantino per ce l'avete votare il volantino sì, esatto. Ricchi da Londra, ti è arrivato il volantino, a Losanna la nostra Angela ti è arrivata il volantino, scrivetemi. Angela a Losanna sa che può anche votare no, visto che la lettera del Presidente del Consiglio, che appare come la lettera ufficiale dello Stato, c'è la par condicio, sì. C'è la par condicio, tu hai detto no, io ho detto sì. Poi tu hai detto sì, io dico no. Si mette male qua in Italia, possiamo venire a casa tua? Esatto, ma chi è Angela Losanna? Angela, tutti da Angela Losanna. Sì, Angela, iniziasse a preparare le asciugamani per gli ospiti. Comincia a fare un abuso edilizio, cara Angela, lì a Losanna, allarga la veranda. Angela, la chiudiamo quel terrazzo, così facciamo un po' di spazio. Esatto, esatto. Comunque sciocchina è tutta la vita che io dico no e tu dici sì, su diciamolo. Esatto. Beh, vabbè, questa caro Federico Novella, questa la mettiamo, la scolpiamo nel marmo. Allora, è tutta una vita. Aspetta, che la stai tatuando direttamente, che, no? Sì, esatto, è tutta una vita che io dico no e tu dici sì. C'è una targa adesso, no? Citazione Gandhi, Veronica Gentili. Gandhiana, era bello. Veronica Gentili, va bene. Signori, sono le 6.44 di martedì 22 novembre. Potrei andare a seppellirmi a questo punto. Nonostante tutto, continuerai a dire sì. Nonostante tutto, continuerò a rimanere qui imperterrito a condurre. Va bene, allora dobbiamo dare le informazioni sul traffico e poi rientriamo con Federico Novella e Veronica Gentili. E i selfie, mi raccomando, i selfie mandateli. È già arrivato quello di Veronica, sì, quello di Federico no. E quindi un invito caldissimo, Federico, se non sei proponibile puoi anche fare un selfie allo stipite della finestra, va benissimo. A tra poco. Milan, mandami il traffico, mandami il traffico, altrimenti a schifeo finisce. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Milan, io a sentirti così amareggiato che siete a meno 7, godo Milan, godo! Alino, non ti buttare giù, in fondo mica hai Perisic, hai pareggiati Sic. Oh Maria, sono Anacleto e stamattina e chi c'era alla televisione? Veronica Gentili, era ghingata, anelli, orecchini, collane, sembrava una cartomante. Ma ci manca anche il lavoro lì e poi siamo a posto. A tutte le funzioni del mondo. Ciao sciocchino. Well, she's walking through the clouds with a circus man. That's right. Capito, Veronica? Sentito. Oppure Anacleto, il fiorentino, mi dà dello sciocchino, a parte allora, che ti dà della cartomante. Ma quindi, infatti adesso comincerò a leggervi le carte, guarda, per la prossima volta mi preparo. Vabbè, ma senti qui ancora De Luca, caro Federico, concentraci, tu uomo di TV, senti qui, è mitica, questa rimane nella storia. Io intanto devo ringraziarla per la sua pazienza, no? A volte lei mi fa fare questi monologhi. Ma ci mancherebbe, prego. Qualcuno dice perché ci sono suoi colleghi che passano la vita a interrompere ogni 10 minuti. Lei o ma perché come? Conosce il senso della storia. Ma come? O perché non se ne frega niente. No, mi fa parlare a ruota libera. Federico, questa è l'Ira TV. Dove De Luca fa dei monologhi fantastici e dice lei mi fa parlare. No, ma prego, Presidente. C'è gente che mi interrompe ogni 10 minuti. Ogni 10 minuti. Cioè 10 minuti si sono fatti dei cortometraggi in 10 minuti. E lei conosce il tempo della storia. Sì, attenzione. Sì. È una cosa incredibile. Meraviglioso, dopo 10 minuti ci sono i primi morti, no? Sì, esatto. Federico, che conosce i tempi della TV, me l'ha detto. Quanto è lui? Quanto sono 10 minuti? 10 minuti è un intero palinsesto, praticamente. È metà telegiornale. 10 minuti. Sostanzialmente sì. Ci sono dei suoi colleghi in fast-track. Ha dei tempi televisivi, nonostante tutto, fenomenali, formidabili. È un personaggio. È un personaggio televisivo. È un personaggetto, va bene. Allora, sì. Signori, le notizie così dai giornali, giusto una pre-rassegna stampa. Mettono l'IVA al 5% anche per le gondole. Ora come giusto? Perché guarda che a Venezia ti fanno la pelle. Giusto che anche le gondole possano pagare, no? anche i giri in gondola. Poi hanno sospeso un 17enne di Moncalieri che spacciava roba nella scuola. La roba erano merendine. No, ma questa è vera, eh. Lui le comprava a basso costo, aveva un giro di WhatsApp, gli chiedevano i gusti alla cioccolato, alla marmellata, eccetera. Le comprava a basso costo e le rivendeva da imprenditore ai propri compagni. Sospeso. Scusa, sì, inutile che dite che uno deve stare sul mercato, deve stare sul pezzo, le cose, e poi esatto, vi lamentate. E lui dice, nell'istituto gira droga, ma ai pusher niente, ma allo spacciatore di merendine. Però guarda che il racket delle merendine è sempre stata una piaga del nostro sistema scolastico. Sì. E fa questa intervista a Repubblica, che dopo leggerò, tutti i miei compagni continuavano a chiedermi la roba, ma la roba sono gli snack. Gli snack, le merendine. È stato sospeso. Era roba buona, era roba buona. È stato quella sì che è roba, tanta roba. Sì. Esatto. E poi però vorrei esercitarvi su Donald Trump. Allora, Donald Trump che sta facendo come se fosse in una trasmissione televisiva i casting di The Apprentice per formare la squadra di governo. Questo è il dato di fatto. E tra l'altro ci sono degli articoli molto interessanti oggi sul Corriere, ne leggerò uno sui potenziali conflitti di interessi tra Donald Trump imprenditore e le banche. Sciocchina, io volevo chiederti una cosa, sì, ma Donald Trump, sì, quando va dal parrucchiere, sì, chiede di farsi il tuo colore di capelli? Sì, c'è la foto di Milan davanti, la voglio come lui. Ma perché come le ragazze che vanno dal chirurgo con la foto di Angelina Jolie, sì, io pensavo in questi giorni, secondo me lui va dal parrucchiere con un ritaglio di una tua foto. Sei veramente, cioè, questo è un colpo non basso. Lo penso anch'io, ma non credo che Trump vada dal parrucchiere, va in una conceria. Non basso di più, molto di più, è tutta una vita che io dico no e tu dici sì, molto di più. Cioè, ti ha detto che sei, una testa di Trump, sostanzialmente. O Trump è uno sciocchino, è tutto. Allora, relativo. Federico Novella, parlo solo con te a questo punto. Donald Trump, siamo seri. Donald Trump, questo silenzio di Donald Trump, che per molti è mediatico, in questo, nel senso è strategico, è, che dobbiamo davvero, cioè, da Donald Trump, questo ciclone che abbiamo visto. Ma sta scegliendo i suoi collaboratori. Non lo so, guarda, io su Donald Trump mi sono fatto l'idea che o sarà un grande presidente che ricorderemo, perché, oppure sarà un disastro che non riuscirà neanche ad arrivare alla fine del mandato. Non ci sono vie di mezzo, secondo me. Anche secondo me, sì, non è un personaggio certo da toni bassi, da toni sfumati, da no. O sarà un grande o sarà un disastro. O un grande o un disastro. Io temo che la cosa peggiore che possa accadere con Donald Trump è che da un punto di vista economico non faccia nulla, nel senso che si mantenga invece contiguo a quella che è stata la politica americana finora, e invece da un punto di vista, come dire, più complessivo delle politiche del paese finisca a fare tutto quello che ha promesso in campagna, non tutto chiaramente, non il muro con il Messico e non le deportazioni, ma che invece proprio culturalmente si riveli un presidente xenofobo e la squadra di governo temporanea, sì, purtroppo va in questa direzione. Sì, qua. Però la questione sono sempre, come al solito, i soldi, no? La questione dei soldi. Perché? Perché anche leggeremo, Donald Trump, per esempio, da imprenditore, ha chiesto tantissimi soldi a Bank of China. Capisci? Okay. China, quella China, lui che c'ha l'ossessione della Cina. Che dovrebbe essere appunto il paese nemico per antonomasia. E allora che fa? È per questo che ti dico che rischia di essere tutto quanto un paradosso, cioè mentre mantieni le politiche sull'immigrazione, che in realtà è soltanto un residuo del resto, sull'economia poi alla fine ti tieni, essendo poi uno che ha fatto il businessman tutta la vita, resti così. Esatto. Quindi continui a fare quello che si è sempre fatto senza cambiare nulla, altro che isolazionismo, dazi e così via. Quella sarebbe la cosa peggiore di tutte, perché non succede niente, però il paese nel frattempo, da un punto di vista questa proprio... Questa è la questione. Cioè, gli americani sul conflitto di interesse sono anche abbastanza attenti. Intanto vi informo che Angela ci fa sapere che Angela a Losanna ha deciso di non votare, parla di sé in terza persona. Però dice il lago vi aspetta, che vuol dire, caro Federico, niente abuso edilizio, te ne vai a dormire in riva al lago. Tu dici, secondo me no, c'è una stanza vista lago che è pronta ad accoglierci, non è vero, Angela? Mentre invece a Londra, no, guarda, vedi, interessante, vedi il vostro appello, Londra, Giacomo, arrivato tutto e votato, dillo a quei due, non dice cosa ha votato, è meno male perché non si può dire, quindi ha già votato. Arrivato tutto vuol dire sono arrivate le istruzioni per votare. È arrivato tutto, intende anche l'altra campana? Adesso non lo so, è un tempo... Giacomo, qui specifichiamo perché siamo tutti molto inquieti. Io dico no, tu dici sì, l'ho fatto da sola. Io no, esatto. Dai, vi devo salutare, Veronica Gentili, Federico Novella. Grazie Veronica, oggi mi hai trattato benissimo. Ti ringrazio molto, passerò una buona giornata. Ciao. Salti, salti, salti, salti, salti. China, China, China, China, China, China, China, China, China, China. You go over to China, China, China, China, China, China. I love them. China, China, China, China, because China, China, China. You know, China. I know China very well. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... È arrivato Milanalino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Sono le 7:21 minuti, tra qualche secondo eccoci qui cari ascoltatori nello spazio della rassegna stampa di 24 mattino. Ci siamo con la lettura dei giornali. Vai Peter Pescapè, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo martedì 22 novembre, intanto alcuni titoli, l'apertura del Sole 24 Ore su Wall Street ai massimi storici, Milano frenata dalle banche. Dunque la giornata in borsa, poi l'aborto e la presa di posizione del Papa sull'aborto, considerato sempre un peccato, ma il Papa dice aborto, il perdono del Papa, è l'apertura del Corriere della Sera, la svolta della Chiesa, i preti potranno sempre assolvere donne e medici, così Repubblica, il Papa e l'aborto, sia il perdono per donne e medici. L'apertura invece della stampa, Visco, è un'intervista al governatore di Banca Italia, sì o no, avanti con le riforme. I profughi azzoppano Renzi, così apre Libero, secondo Vittorio Feltri, è il tema migranti, quello che rischia di far perdere il sì al referendum. Mentre per la verità le tasse che verranno dopo il referendum, manovra aggiuntiva in corso, questo è il titolo di prima pagina. Si torna sul tema aborto anche per il Messaggero, aborto, il Papa rompe il tabù, e anche il Manifesto mette il Papa con il titolo Il buon pastore. Il titolo di prima pagina. Vedremo altre aperture, voglio però partire subito da questa bella inchiesta che Federico Fubini fa sugli Stati Uniti, su Donald Trump e sul potenziale conflitto di interessi del neopresidente americano. Gli intrecci pericolosi con le banche e i conflitti di interessi di Trump. Sono a pagina 14 del Corriere della Sera. Deutsche Bank ha prestato denaro all'immobiliarista quando Wall Street lo teneva a distanza, ora è il primo creditore del presidente americano. E Fubini scrive: prima che tutto questo iniziasse a sembrare verosimile, Donald Trump si lasciò andare a una confessione alla CNN. Sono il re del debito, lo amo. Come tutti i costruttori, il presidente eletto degli Stati Uniti ne ha avuto molto e ne ha ancora. Per 315 milioni, secondo le dichiarazioni nei formulari della sua candidatura alla Casa Bianca. Per almeno 650 milioni di dollari, secondo le ricostruzioni più caute e mai smentite. Come molti imprenditori del suo settore, non sempre ha onorato questo debito in tempi o modi previsti, dunque ha avuto rapporti complessi coi suoi finanziatori. In termini tecnici, un simile potere, cioè quello oggi in grado di influenzare in profondità le regole e i vincoli entro i quali devono muoversi sul mercato le banche, è un conflitto di interessi. Nessuno sa precisamente quali decisioni prenderà, ma le sue scelte sono certamente destinate a esercitare effetti sulle banche che a loro volta hanno un grande potere sulla sua fortuna personale. Non vi sono indizi che Trump voglia abusare del suo potere, ma ciò che conta è che ora può farlo. Non mancano le situazioni nelle quali è in grado dal governo di favorire i suoi creditori in cambio di un trattamento di riguardo per se stesso. Un'inchiesta del New York Times dell'agosto scorso, basata su bilanci della società Red Vision Systems, ha fatto emergere dati e debiti su 19 diverse entità legate a Donald Trump. Al numero civico 1290 della Avenue of Americas of New York, per esempio, il presidente eletto è comproprietario di un palazzo per il quale nel 2012 hanno prestato 950 milioni una sussidiaria di Deutsche Bank, due controllate di Goldman Sachs e della banca svizzera UBS e anche Bank of China, la banca a controllo statale di Pechino. Circa un terzo dell'immobile e il relativo debito sarebbe in capo a Trump. Il futuro presidente dunque sarebbe esposto indirettamente su quel governo cinese che nel frattempo lui stesso minaccia con dazi e altre misure. E poi si racconta di un'altra inchiesta del Wall Street Journal che documenta come le filiali americane del gruppo tedesco Deutsche Bank abbiano sempre tenuto aperte vaste linee di credito sull'imprenditore. Insomma, continua questa inchiesta di Federico Fubini a raccontare tutto. I soldi che a Donald Trump sono stati prestati dalle banche. Quelle banche, per esempio, mi ha stupito Bank of China, quella Cina verso la quale Trump si è scagliato varie volte. Che farà ora il presidente eletto con il suo potere? Questo è il dubbio del potenziale conflitto di interessi in America. Oh, se veniamo alle questioni italiane invece, sapete che si è molto dibattuto di questa post-verità, delle notizie false che vengono spacciate per vere, delle notizie, ne abbiamo discusso anche qui a 24 mattino la scorsa settimana, e c'è da dire che l'articolo di Salvatore Merlo, oggi sul Foglio, Salvatore Merlo che intervista Hermes Maiolica, 33 anni, metalmeccanico di Terni, è molto illuminante, ve lo segnalo per come funziona la informazione in Italia. Storia di Hermes Maiolica, il re delle bufale, che con le bufale smaschera i veri imbroglioni della politica. Dice questo Hermes, un credulone è un credulone, ma un milione di creduloni sono una forza storica, parafrasando così Leo Longanesi. Inizia questa chiacchierata col Foglio dicendo: ti ricordi quando dopo le europee Beppe Grillo urlava di brogli elettorali? Sì, certo. E Grillo si basava su una bufala che mi ero inventato io insieme agli amici dell'Osservatorio Politico, un blog che ha anche una pagina Facebook. Ci inventammo una notizia di certi exit poll commissionati dal mondo della finanza, diffusi in Inghilterra, che davano per vincente il Movimento 5 Stelle. Ed ecco che, come se fossero veri, Beppe Grillo disse brogli alle europee, chissà, secondo notizie reperibili facilmente in rete, ma erano le nostre. E dal mio sconcerto ha preso piede questa attività di produttore di notizie fasulle che poi incredibilmente rilanciate sui social, riprese dai blogger e poi dai siti, finiscono per diventare veri. Per esempio, iniziai un giorno scrivendo che il ministro di allora Chienghe voleva dare priorità per l'assegnazione delle case popolari, stai bene attento, a zingari, neri e rettiliani. Allegai questa panzana grottesca con un articolo di giornale finto. Bastavano le tre righe che avevo scritto io, nessuno lesse. Accadde che decine di persone commentavano, incazzate, insultavano, si indignavano, condividevano su Facebook senza badare che avevo scritto ai rettiliani. Molti non capivano, odiavano la Chienghe, punto. Questo era sufficiente per far credere a tutto, forse anche al fatto che i rettiliani fossero un'etnia dell'Africa subsahariana. Succede così che se la notizia conferma un tuo pregiudizio, ci credi, diventa vera. O meglio, non ti poni nemmeno il problema che possa non esserlo. Per esempio, tempo fa ho diffuso un'altra bufala. Umberto Eco voterà sì al referendum, ma era morto da 5 mesi. Eppure tutti commentavano, insultavano Eco, che ovviamente nel frattempo era morto, e gli davano del venduto, del servo delle lobby. Ecco, è la post-verità, oppure dice Hermes Maiolica al Foglio, è la prevalenza del cretino. E Beh, racconta che internet ha solo moltiplicato e prodigiosamente le occasioni per agire e manifestarsi. È illuminante questa intervista a Hermes Maiolica sul Foglio, su come funziona un certo grado di informazione. Va bene, invece, come dire, una notizia dalla scuola che mi ha sconvolto dalle risate, ma in realtà è una notizia vera, c'è su Repubblica, c'è sul giornale, è stato sospeso uno studente di 17 anni che spacciava a scuola. E voi direte, che c'è da ridere? Spacciava merendine. Scusate il gioco di parole. In realtà questo ragazzo, che l'aveva già fatto l'anno scorso, è stato sospeso anche l'anno scorso, si è ingegnato, qualcuno adesso lo criticherà, ha trovato un modo per comprare delle merendine a basso costo e rivenderle ai compagni guadagnandoci un po'. Ma non è il succo dell'imprenditoria questo, voglio dire, applicato alle merendine. Il venditore di merendine, io sospeso, i pusher no, intervistato da Stefano Parola su Repubblica, parla al ragazzo di 17 anni che a Moncalieri in classe smerciava snack e bevande ai compagni. Quando ho notato che gli snack a scuola erano cari, un tè freddo è 1,50 euro, quando al supermercato costa dai 29 ai 35 centesimi, mi è venuta l'illuminazione e ho iniziato per scherzo. I compagni mi ordinavano la roba, il tè, perché risparmiavano. Mi han beccato la settimana scorsa con nello zaino 20 snack, 10 lattine di bibita e 10 tè freddi. E che tariffe faceva? Gli snack li pagavo a 30 centesimi e li rivendevo a 50. Beh, comunque un bel risparmio rispetto alla macchinetta. La macchinetta costano 1 euro, infatti. I margini erano minimi. Faccia lei i conti. Saranno stati 100 euro al mese che facevo. E poi lui dice, giustamente, qui spacciano anche droga nella scuola, ma i pusher nulla, e invece sospendono me. Eppure mi ero organizzato su WhatsApp, i compagni mi chiedevano i gusti delle merendine, mi dicevano, continuavano a chiedermi la roba, ma sono snack, state tranquilli. Però su Repubblica l'intervista al ragazzo venditore di merendine, che anche Carlo Lottieri difende sul giornale, dicendo questo stato burocratico che censura chi studia da imprenditore e sospende il ragazzino uccidendo l'inventiva. E vabbè, che dobbiamo fare? Ma non è questo il premio che mi fa più arrabbiare, il premio Mani sul Volante per l'articolo che mi fa pinzare della giornata. Va alla prima di Libero con Franco Bechis, che racconta il Quirinale e le Camere non si tagliano un euro, altro che tagliare la casta, questo almeno si legge nelle spese per organi costituzionali a rilevanza costituzionale nella legge di bilancio 2017, la cifra che spendiamo per Quirinale, Camere, Senato, 1.768.313.731 euro, 22 milioni in più rispetto all'anno scorso. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alino, a Di Maurino, cadagi giù, perché lui è gitto giù di già. Dialetto perugino. Ah, chiarissimo, caro ascoltatore. Chiarissimo per esempio per il nostro Simone Spezia, che mi scrive ieri, giustamente aveva il preside di questa scuola a effetto giorno, potete riascoltarlo in podcast, perché il tema di questo ragazzino spacciatore, potremmo dire, di merendine, di snack. Per esempio molti mi scrivono, ma emetteva fattura, scontrino? Non credo proprio. Però un altro ascoltatore si autodenuncia, io preparavo i panini a casa e li vendevo a scuola. Caro ascoltatore, non so se è in prescrizione il reato, quindi grazie per la segnalazione, prendiamo il tuo cellulare e lo segnaliamo alla più vicina procura della Repubblica. Vedremo un po', insomma, come finirà questa vicenda del ragazzino imprenditore e spacciatore di tè freddi a Moncalieri. Ah, intanto, il referendum il tono scema perché la campagna elettorale sale nei toni, io veramente la trovo insopportabile, vi risparmio gli insulti dai serial killer, siete voi, uccidete il futuro dei nostri figli, dice Grillo a Renzi, Renzi dice in difficoltà, voi avete le firme false, eccetera. Vabbè, lasciamo tutta questa cosa, vi segnalo gli articoli più interessanti forse per orientarsi sul tema referendum. Intanto l'intervista a Ignazio Visco, governatore di Banca Italia. L'intervista la trovate sulla Stampa, pagina 2-3, Alessandro Barbera che intervista il governatore di Banca Italia, che dice la politica economica non sia prigioniera dell'emergenza, parla di Trump. Poi parla, sono Alessandro Barbera e Marco Zatterin, per la verità sono in due che intervistano Ignazio Visco. A un certo punto parla anche del referendum e dell'incertezza politica. La politica, dice Visco, non può avere una veduta corta, come diceva Padoa-Schioppa. L'abilità di chi fa politica sta nel saper spiegare vantaggi, soprattutto quelli non immediati, delle scelte compiute e nel rifuggire dalla tentazione di limitarsi all'utilizzo di slogan, cioè il contrario di quello che avviene in Italia, traduco io. La domanda è questa. Il Financial Times addirittura evoca l'uscita dell'Italia dall'euro dopo il referendum. Perché tanta agitazione? L'ho detto, risponde Visco, non c'è chiarezza su quel che sarà la risposta successiva all'esito del referendum. Lo sforzo di rendere il nostro ambiente economico più favorevole all'attività di impresa dovrà continuare. Solo così si potrà dissipare l'incertezza che condiziona gli investimenti e frena la crescita. Ovviamente le risposte non sono semplici, tuttavia mi sembra che pur nelle difficoltà dell'emergenza, in questi ultimi difficili anni si sia andati in questa direzione. Insomma, dice Visco, la politica economica legata al referendum, in realtà si facciano le riforme, che vinca il sì, che vinca il no, questo dal giorno dopo. Poi sulle banche dice una cosa importante Visco, sul futuro delle banche in difficoltà. Intanto dice, quando penso alle banche italiane dormo tranquillo, anche se da molti anni dormo poco. E poi aggiunge sulla possibilità di un intervento pubblico per le banche in difficoltà. Sinora non è stato necessario. Oltretutto un intervento pubblico non avviene nel nulla. Ci sono regole precise, il principio del bail-in è sano. È come lo si attua che può lasciare a desiderare. Bisogna avere presenti i rischi per la stabilità finanziaria, può piacere o no, ma una volta che esiste una norma va rispettata per evitare di creare incertezza. Al contempo esistono sufficienti margini di azione per superare gli ostacoli. Dunque Visco fa sapere un intervento pubblico sulle banche, ci sono regole da rispettare ma non è escluso. Questo è il governatore di Banca Italia. C'è tutto questo tema dei mercati finanziari, Repubblica si interroga per chi vota la paura, c'è questo articolo del Financial Times che secondo molti è stato tradotto con c'è il rischio che l'Italia esca dall'euro dopo il referendum. Sta di fatto che ci sono tanti dibattiti il 4 dicembre alle porte. C'è anche questa lettura, per esempio, molto originale del Fatto Quotidiano, Tommaso Rodano si concentra sul tema dello spettacolo, di coloro che fanno parte del mondo dello spettacolo, molti dei quali sono a favore del sì. Secondo Tommaso Rodano c'è una ragione pratica, precisa, è sempre la solita, i soldi, secondo il Fatto. Franceschini ha aumentato del 60% i fondi per il cinema, i top player firmano la lettera pro riforma, il governo lo copre di soldi e il cinema dice subito sì. Pagina 6 del Fatto, alla fine è arrivato l'appello con cui decine di big del cinema italiano hanno annunciato il loro sì al referendum costituzionale. E che è successo, secondo il Fatto? Con una domanda precisa, cosa c'è nelle leggi del governo che piace tanto al grande schermo? Volgarmente, una barca di soldi. Dopo anni di vacche magre, Franceschini istituisce un fondo unico per il cinema e l'audiovisivo e lo finanzia con una cifra minima di 400 milioni di euro l'anno, almeno 150 in più rispetto al passato, un aumento delle risorse del 60%. Questa buona notizia, secondo il Fatto, porta all'aumento dei sì nel mondo dello spettacolo. Chissà se è così, qui a sciogliere tutti i dubbi c'è uno che sa tutto di queste cose, il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, come va? Buongiorno, buongiorno. Ma sentivo questa cosa nel mondo dello spettacolo. Sì, sì, lo so, lo di so. Di cui anche tu fai parte. Anche tu perché... fai parte, caro Mauro. Vogliamo ricordarlo. Cari amici. Anche tu fai parte. Sì. Domenica, cari amici, ormai lo sapete, domenica al Teatro Manzoni di Milano ci siamo tutti praticamente. Ci sono io, c'è Leonardo Manera, c'è Oscar Giannino, c'è Mauro Meazza, ci sono i Chapter 11. Domenica sera. Al Manzoni, dai, andate sul sito teatromanzoni.it e comprate il biglietto, anche se c'è Meazza. Nel frattempo, però non dimenticarti che oggi è martedì, come tutti giusto. Martedì. Il condominio. Bravissimo, ma non solo, perché oggi c'è anche ma i tuoi diritti. Ma tu cosa fai domenica, suoni? Non lo so, vediamo, perché uno viene poi vede, che... sente, che ne so, vediamo. Ascolta, vabbè. Quel che amor mi dita dentro, diceva il poeta. Ah, fai l'endecasillabi. Può essere, questo non possiamo escluderlo. Fammi parlare dei tuoi diritti, hai ragione. Che è importante. I miei diritti, giusto. No, i tuoi diritti è il nome della collana, come sai. Ecco. Che oggi si conclude con l'ultimo fascicolo ed è dedicato alla sanità. Cioè il funzionamento della sanità e i diritti in sanità, ad esempio la privacy oppure gli sconti fiscali che non sono mai da trascurare. Ecco, e io dico al Sole 24 Ore, non venire a cercarmelo al bar o non chiedermelo domenica, bene, perché può darsi che io non lo porti con me. Domani invece ci sarà un fascicolo dedicato al condominio, sempre con il Sole 24 Ore, anche se domani è mercoledì. Invece oggi c'è la pagina di condominio su norme e tributi, nella parte di norme e tributi che tu leggerai come sempre. Aspetta, religiosamente, distratto. Religiosamente. No, è che è proprio così. Non... Niente, il condominio il condominio di mercoledì ti ha mandato in confusione. Sì, c'è il condominio di martedì, la pagina, sì. E domani il fascicolo, anche se è mercoledì. Oh, ti voglio segnalare il blocco di Equitalia di ieri per gli hacker. Gli hacker hanno bloccato Equitalia, oggi ne riferiamo sul Sole 24 Ore. Le tasse si pagano regolarmente, state tranquilli. Il meccanismo però continua a funzionare, il sito è stato ripristinato, ma ti voglio segnalare anche l'approfondimento che abbiamo sul Sole 24 Ore sulla quantità di banche dati. Lo trovi a pagina 11, le banche dati del fisco, un bel lavoro di Giovanni Parente che mi piace citare. Oh, così come mi piace citare come articolo da meditazione il neologismo che oggi conia Moria Longo, il trampolino. Il trampolino per i mercati, cioè come le prime dichiarazioni di Trump stiano lanciando i mercati, ma è un articolo appunto da meditazione, non te lo posso riassumere, neanche ti posso riassumere che abbiamo degli articoli dedicati ai temi, ai contenuti del referendum, ma ovviamente questi non li possiamo riassumere, li segnaliamo, oggi sul Sole 24 Ore e poi l'INAIL ha diffuso finalmente le istruzioni per l'assicurazione per gli studenti che fanno l'alternanza scuola-lavoro, sai che c'è questa alternanza? Sì. Ecco, allora ci sono state finalmente le indicazioni dell'INAIL e ne riferiamo puntualmente nelle pagine che tu leggerai religiosamente, molto bravo. E poi, ultimo, ma non per questo meno importante, ti voglio dire che ieri Theresa May, e lo spieghiamo appunto sul Sole 24 Ore di oggi, ha buttato lì che potrebbe pure abbassare ulteriormente le tasse per le imprese. Qui ci sta giocando una partitina parecchio importante, con Trump da una parte che promette di abbassare le tasse, la May che pensa ad abbassare le tasse, tutti pensano ad abbassare le tasse. Ho sentito che anche ieri qualcuno a Radio 24 ha parlato di tasse abbassate, sembra che ne abbia parlato proprio con te. Ecco, anche di questo spieghiamo, perché ha parlato anche di comunicazione IVA, lo leggi su norme tributi oggi sul Sole 24 Ore. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Alessandro Milan, è l'Esi Giornai, è il te commenta e notizie. Ogni tanto fa anche una cantadina. Come ti fanno ascoltarlo? Dialetto veneziano. Va bene, continuate, è bella questa cosa che abbiamo ripreso con i dialetti. Al 349-238-6666. Mandateli in audio, siamo qui cari ascoltatori. Tutti quelli che mi scrivono, ma non siamo di Milano, possiamo vedere in streaming pagando lo spettacolo. Ma no, dai, domenica chi riesce viene a teatro al Manzoni, almeno a teatro si va a teatro, no? chi vuole ce la fa viene a Milano, e chi è di Milano è favorito, e noi siamo di Milano e faremo una tournée mondiale, non vi preoccupate, arriveremo anche in Giappone con Platone, va bene. Allora, per il momento siamo domenico a Milano, eh? Allora, le firme false del Movimento 5 Stelle a Palermo, ancora articoli, il genero di Borsellino ora accusa, è il marito di Lucia Borsellino, si chiama Fabio Trizzino, è un avvocato decisamente infastidito perché la sua firma compare tra i moduli, lui dice: sono pronto a costituirmi parte civile, ma proprio figurarsi se io ho mai potuto dare il voto al Movimento 5 Stelle, che chiese tra l'altro l'arresto di mia moglie quando era assessore alla sanità, quando ci fu un caso di una morte di una bambina in ospedale a Catania, e quindi dice: non ho mai firmato per le comunali. Certo che su questa cosa del Movimento 5 Stelle delle firme è abbastanza illuminante ciò che scrive oggi Mario Giordano in prima pagina sulla Verità. Il PD dei 125 indagati si straccia le vesti per le firme grilline. Scrive Giordano: finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo capito il nostro vero problema, l'emergenza nazionale. Non c'è desco familiare che non s'arrovelli nel dibattito, non c'è mercato rionale dove non risuoni la domanda angosciata: agli onorevoli 5 Stelle, in quanto 5 Stelle, si devono dimettere prima o dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia per la vicenda delle firme false? E scrive ancora Giordano: sia chiaro, nessuna indulgenza verso i falsificatori di sigle, nessuna pietà per chi urla onestà poi tarocca le firme come nelle peggiori tradizioni italiane, ma il PD ha 125 indagati. E questo è il titolo dell'articolo, poi a pagina 2. Il PD dei 125 indagati pretende di mettere in croce i grillini. Proprio loro, quelli dei voti pagati, delle tessere false, degli avvisi di garanzia a pioggia. Solo pochi giorni fa il presidente del PD a Latina è indagato perché è coinvolto in un giro di corruzione con 16 arresti. E Giordano dice: ma è l'informazione politica e anche la battaglia politica si gioca su questo. Va bene, intanto signori, ci tassano perfino le gondole. Arriva la proposta nella manovra di mettere il 5% di IVA sugli trasporti via acqua. Finora vaporetti e gondole non erano tassate, arriveranno il 5%, se rimarrà nella manovra, chissà, il 5% di IVA. Staremo a vedere. Neanche il giro in gondoletta. Allora, il Papa e l'aborto. Come sapete, molti giornali aprono su questo, ci sono tanti commentatori. Carlo Marroni, vaticanista, sul Sole 24 Ore, pagina 35, racconta: nella chiusura delle porte sante del Giubileo, Francesco lascia aperto il portone della misericordia e lo fa concretamente verso chi sente l'esigenza di riavvicinarsi alla Chiesa dopo aver traversato esperienze di vita molto dure, come l'aborto. Il Papa ha deciso e messo in pratica una nuova norma: d'ora in avanti tutti i sacerdoti del mondo potranno assolvere le persone che vi si rivolgono dal peccato di procurata interruzione di gravidanza. In questo modo Bergoglio ha reso permanente la disposizione che aveva introdotto in fase di indizione dell'anno santo rispetto alla normativa ordinaria, che prevedeva l'intervento del vescovo o di un suo delegato per il perdono di questo peccato. Peccato che rimane, come racconta in maniera precisa tutti i giornali, lo fa anche la professoressa Lucetta Scaraffia a pagina 2 del Corriere della Sera, lo faccio vedere anche nella mia pagina Facebook, nel mio profilo, vieni qua Lorenzo Nespoli a inquadrare, eccola qua, la professoressa Lucetta Scaraffia scrive, viene intervistata dal Corriere, da Paolo Conti, e dice: il peccato rimane, ma così si accoglie il dolore delle donne. Chiariamo subito il punto: il peccato resta. Papa Francesco ne ha parlato continuamente in termini molto severi e in diverse occasioni, ma il pontefice distingue tra il peccato, verso il quale resta durissimo, e il peccatore, che ha la possibilità di cambiare vita. La nuova norma contiene un riconoscimento implicito alla sofferenza che ogni donna prova dopo l'esperienza di un aborto. Comunque su tutti i giornali trovate, è una notizia che ha fatto il giro del mondo, ieri è la prima notizia americana anche sui siti, sulla CNN, dopo che per tanti giorni si parlava solo di Trump, ora questa decisione del Papa sull'aborto. Vi segnalo questo straordinario personaggio intervistato dalla Stampa da Maurizio Iappini. Si chiama Valerio Scarrone, che è grande tifoso dell'Alessandria, dei grigi. Lui ha un privilegio: dal proprio terrazzo di casa riesce a vedere la partita di calcio del Moccagatta. Ma siccome ritiene che questo sia un privilegio esagerato e siccome è talmente attaccato comunque alla maglia, alla propria maglia, ai propri giocatori, fa comunque l'abbonamento allo stadio, in tribuna, da anni. Eppure se la vede dal terrazzo. Pago l'abbonamento anche se vedo le partite dal balcone. È di Alessandria il tifoso più onesto. Questo per la Stampa. È la storia di Valerio Scarrone. Non sente ragioni, lui l'abbonamento lo paga anche se può vedere la partita dal balcone di casa. Siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è una pagina intera. Vieni Lorenzo, inquadra. Gli 8 modi per lasciarsi tra Brad Pitt e Angelina Jolie in modo discreto, Taylor King e Lady Gaga in maniera educata, Rihanna e Drake in maniera aperta, chi in maniera sbrigativa, chi in maniera invisibile, chi amichevola, chi in maniera esibizionista. Come si lasciano i grandi, i VIP? Ma chi se ne frega!